con un foglio di carta so fare un aeroplano che se lo lanci bene vola molto lontano. L'ho imparato a giugno in un campo estivo, la legge di Bernoulli e neanche lo sapevo. Un pettino rosso sul davanzale mi guarda e vola via. Usa la stessa legge naturale, l'unica che ci sia. Basta una parola per una grande idea, una sola voce diventa una marea, ma se la stessa idea diventa un'ossessione, un grande ideale può essere oppressione. È un pappagallo dal Brasile, ormai di casa a Milano. Sembra che riesca a comunicare con un colombo del Duomo. Capita a volte che un gesto buono, come una liberazione, possa creare le condizioni che portano un esito. Giornate di vento, la grande luce dell'ovest, la scia di un aereo che taglia il cielo, dove potrei fare.